Tauro è una vittima sacrificale. Era facile colpire il vignettista comunista per far star zitti i giornalisti d'inchiesta. A Varo va tutta la nostra solidarietà e soprattutto la speranza che con questo atto di censura il pubblico si sveglia.